FM。 Pensavo di essermi liberata del tuo no, però è sempre un piacere. Pinocchio. Metallica, unica data italiana al 22 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna, con loro ci saranno, attenzione, attenzione, anche i Down. Rage Against You, tributo ai Rage Against the Machine, il 16 maggio al Flare Up Pub di Storia in provincia di Genova. Quindi questa sera, oggi è il 16 maggio. I Bad Religion, tra un mese esatto, quindi il 16 giugno alla Rolling Stone di Milano. Rage Against the Machine, 14 giugno allo Stadio Bralia di Modena. I Negramaro insieme ai fratelli e The Hoosiers and Fashion il 31 maggio allo Stadio San Siro di Milano. Io vorrei approfittare del tour de force di questa della citazione di questa data per ringraziare i Negramaro, che sono stati e sono, cioè, carinissimi nei confronti della radio, e grazie, grazie, grazie. Motor Psycho, 22 maggio vai per Firenze, 23 maggio Roma, 24 maggio Velvet Rimini, 25 maggio Alcatraz Milano. Parliamo anche dei di chi? Dei Nile, grandiosi insieme a Grave e Belle Fegori il 10 settembre all'Estragon di Bologna. Un po' in là questa data, Vabbè, noi la ricordiamo. Parliamo anche degli After Hours. Il 23 maggio saranno al Palace Sharp di Milano per chiudere, vi ricordo, le due date italiane di Glenn Hughes. Il 26 maggio al Teatro Fanin di Bologna, il 27 maggio al Music Drum di Milano. E il Tour de Force si conclude così e ritornerà ovviamente questo pomeriggio con Max Derivo. Rock FM. Tour de Force, insieme a Monster Magnet con Wall of Fire, ancora una volta ben trovati. Solo che fam, oggi sono in versione virtuale, ma lunedì sarò assolutamente in diretta con voi. Intanto non l'ho fatto nel Tour de Force, ma vi ricordo ora quelle che sono le due date italiane per Lenny Kravitz. Il 13 luglio sarà all'interno del Pistoia Blues Festival a Pistoia, ovviamente. Il 14 luglio all'Arena Civica per il Jazz in Festival di Milano. Tutto questo il 14 luglio. Grande Lenny Kravitz, questa Bring It On. I'm gonna walk by faith, gonna raise my sword. I'm gonna fight my battle, gonna praise my Lord. We'll be right back. E dopo Lenny Kravitz con Bring It On dal nuovo album, siamo rimasti in tema di novità e di ultimi singoli perché c'erano con noi Mars Volta con Walks Simulacra. Anche la prossima novità è veramente un parolone, infatti usiamo questa novità tra virgolette. In arrivo ci sono i Nickelback con una canzone che ha un video veramente molto molto carino. Ci sono un sacco di ospiti speciali, in questo momento mi viene in mente Gene Simmons, mi vengono in mente le tre conigliette di Playboy. E basta, perché la mia memoria purtroppo si sa un po' così. Rockstar, ovviamente loro sono i Nickelback. I'm through standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs. And a bathroom I can play baseball in. And a king size tub big enough for 10 plus me. Need a credit card that's got no limit. And a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. I want a new tour bus full of old guitars. Find a star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. Cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I'm gonna dress my with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny. We just won't eat and we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Gonna sing those songs that offend the senses. Gonna buy my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. Girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Tell them. che stiamo citando un sacco di date, un sacco di festival, visto che quest'oggi abbiamo addirittura ritrovato il Tour de Force. In occasione dei Rise Against vi ricordo anche la loro unica data italiana, il 16 giugno al Live Club di Trazzo d'Adda in provincia di Milano. Questa era The Good Left Undone, che abbandoniamo. In arrivo c'è Biffy Clyro, che ascoltiamo con Who's Got the Match. Which of the witches do you belong? The one with the eye patch or the one that's highly strung? I know you can't trust anyone. How do you capture a photograph? Put it to sleep, pretend you're having a laugh. I know you thought you'd have the last. Disease in a locked hand, across these, a flag is a rag, it's a crowd out loud outside of twisted tongue. Poor lined up to killing. All the targets are taking aim. All targets are tuned. Rock FM. Rock FM. Milano. Italy. cercando di contattare ovviamente anche gli ex membri degli Scancanensi, visto che diversi anni fa spesso volentieri venivano a trovarci, erano in studio, spesso volentieri abbiamo cazzeggiato anche con loro in diretta, visto che l'Italia era bene o male la loro seconda casa. Scancanensi, questa era Charlie Big Potato, però non Big Potato, ed arrivo Whitesnake. Stiamo cercando di contattare insomma un po' tutti, anche David Coverdale, ci terremo un sacco. Questa All I Want, All I Need. Whatever you want, I'll try to give. No matter what I have to do, through thick and thin, I'll be your friend, by your side till the very end. You're all I want, all I need, so baby, rotto le scatole ai miei ascoltatori serali con questa canzone. Tanto. E quindi ho intenzione di fare la stessa cosa con voi in questo momento e con quelli che mi ascoltano da mezzogiorno alle 14. Per la vostra gioia, un po' di sound oscuro, quello un po' cupo, insieme a Wreckage of Modern City. Questa era No Time. Salutiamo anche il prossimo artista. Vogliamo bene al buon Piero Pelù. Era seriamente preoccupato per noi. Grande, grande, grande. Ce ne fossero. Piero Pelù del nuovo album, questo è Tutti i Fenomeni. C'è festa intorno e io ci sto davanti. La mia testa gira tra luci sui cerchi di mostre alla fragola. Siamo tutti fari e stelle ad occhi punte, convinte e mimetiche. Tutti, tutti, tutti fenomeni, tutti fenomeni, tutti fenomeni, tutti fenomeni. E dopo Pure Blue con Tutti i fenomeni c'erano anche Lovelace con A Life Less Ordinary. La prima volta quando avevo visto il titolo di questa canzone pensavo fosse una cover di una vecchia canzone degli Ash molto bella, A Life Less Ordinary, invece no, sono due cose completamente diverse loro. Comunque sono i Lovelace che abbandoniamo, in arrivo ci sono i Paramore, i giovani, giovani, giovani. Si intitola Riot, il loro ultimo album, dal quale ascoltiamo questo singolo molto famoso, Misery Business. I'm in the business of misery, let's take it from the top. She's got a body like an hourglass, ticking like a clock. It's a matter of time before we all run out. When I thought he was mine, she caught him by the mouth. I waited a long run, she finally set him free. I told him I can't lie, he was the only one for me. 2 weeks and we caught on fire. She's getting out for me, but I wear the biggest smile. Iniziativa legata alla band, alla vendita dei biglietti, perché loro sono un po' stufi, come d'altronde molti, dei bagarini, della prevendita, insomma di tutti questi costi insomma abbastanza inutili. E quindi tramite il sito della band nin.com ci sarà anche la vendita proprio dei biglietti, però in una maniera abbastanza intelligente, nel senso adesso si sta facendo tutto questo esperimento per una data che si terrà ad agosto in America, tipo coloro che si iscrivono a questo sito non avranno maggiorazioni sul prezzo, se si prenotano per primi avranno anche l'occasione magari di ricevere degli ottimi posti sempre all'interno di questi concerti, e una persona potrà acquistare solamente 2 biglietti, sul biglietto ci sarà il nome, e quindi quando queste persone entreranno a vedere il concerto verrà chiesto anche un documento, tutto questo per fare in modo che il solito furbone non compri quei 20.000 biglietti e poi li rivenda fuori dai diversi locali a dei prezzi astronomici. Quindi vedremo come andrà questa iniziativa. Insomma, grandi Nine Inch Nails, grande ovviamente Trent Reznor, che abbiamo già in sottofondo, che riascoltiamo con The Hand That Feeds. Yeah. but you know. Come on, girl, can you keep it up? Is your bluff enough? Are you now.